America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Well, he denied that he had anything to do with the attack. He denied that that he knew in fact that there was a chemical attack, notwithstanding what has been said and notwithstanding the videotape. Il leader siriano Bashar Assad, intervistato ieri da Charlie Rose per CBS, per PBS, dice: non abbiamo avuto niente a che fare con gli attacchi chimici contro la popolazione civile siriana, non ci sono prove per un giudizio conclusivo contro di noi, soprattutto, dice, non posso confermare o smentire che addirittura abbiamo armi chimiche. Beh, c'è da chiedersi, possibile che abbia ragione? Io devo dire, non credo, mi sembra piuttosto strano. Le prove che abbiamo avuto dagli americani sono abbastanza schiaccianti. Ieri il New York Times aveva pubblicato una lunga inchiesta su come negli anni la Siria abbia accumulato uno dei più potenti arsenali di armi chimiche al mondo, aggirando le regole, ottenendo materiali anche da aziende americane, materiali intermedi che servivano alla costruzione delle armi chimiche, soprattutto il nervino, sarin e il VX. Si tratta di armi micidiali, mortali. I dettagli, di nuovo vi ripeto, sono alquanto esaustivi. Questa inchiesta dimostra tra l'altro che per un ventennio l'Occidente ha guardato da un'altra parte mentre la Siria continuava nel suo programma. Eppure Assad continua a negare. Poi dice che se queste armi le avessimo sarebbero sotto chiave, sotto un controllo centrale, dunque è impossibile che siamo stati noi ad usarle. Suggerisce, e questo lo abbiamo già sentito, che l'attacco chimico è stato orchestrato dai ribelli. Questa intervista di Rose è molto lunga. Ieri abbiamo avuto solo degli estratti, il racconto di una Damasco tranquilla, l'ingresso nel palazzo presidenziale dove Rose ha avuto la lunga intervista, l'apparente calma, sicurezza di Assad. L'obiettivo di Assad è di entrare a gamba tesa proprio mentre Obama e i suoi cercano di intervenire sull'opinione pubblica americana, perché mentre oggi Assad parlerà dal podio della PBS, la rete pubblica americana, Obama concederà interviste a 5 reti televisive americane per preparare il terreno al discorso alla nazione che farà domani. C'è dunque una massiccia guerra di comunicazione in questo momento drammatico in cui un attacco di missili Tomahawk americani appare sospeso a mezz'aria in attesa di un voto prima al Senato, poi alla Camera in America, in attesa di una risposta degli ispettori dell'ONU che dovranno solo dire se il gas è stato usato o meno, ma non dovranno, anzi non potranno indicare il colpevole. Però se il gas sarà il sarin, non vi saranno dubbi, perché il sarin è soltanto sotto il controllo del governo siriano, come ha lasciato intendere il resto indirettamente Assad nell'intervista con Charlie Rose. You would go with what the people say through their Congress and you wouldn't go forward with a war that your Congress votes against. Questa battaglia di comunicazione incredibile e chiave perché senatori come Rand Paul voteranno contro e Obama cerca di convincerli a cambiare opinione. Il pubblico americano non ha molti dubbi che l'autore della strage con armi chimiche sia stato Assad, ma non capisce perché gli USA debbano intervenire per l'ennesima operazione militare in Medio Oriente senza che ci sia una minaccia diretta, immediata, urgente per il paese. La cosa curiosa, a differenza di quello che succede in Europa, secondo me, l'America non ha paura di ritorsioni, di bombardamenti, di contrattacchi, ma semplicemente non vuole lasciarsi coinvolgere, non vuole spendere i quattrini, non vuole ritornare nel calderone medio orientale con un'operazione militare. I repubblicani di destra sono isolazionisti, i democratici di sinistra non vogliono la guerra e non vogliono spendere, il grande centro ha bisogno di motivazioni credibili, Obama sta cercando di costruirle per domani. Are there consequences for a dictator who would have used those weapons to gas to death hundreds of children? Ecco, ieri, anche per dare una risposta alla provocazione di Assad, il giro delle televisioni americane lo ha fatto Dennis McDonough, l'ex numero due del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, il capo di gabinetto di Barack Obama. McDonough, devo dire, un uomo riflessivo, prudente, intelligente, conosce a fondo il Medio Oriente ha focalizzato l'attenzione su alcuni punti chiave. Di fatto ci sono due binari: quello dell'attacco per punire la Siria dei suoi crimini con le armi chimiche, quello politico che procede e procederà d'accordo con la Russia a Ginevra per gestire una successione a Damasco. E Don ha rassicurato: l'attacco sarà mirato, non si ripeterà il rischio di una guerra come in Iraq o in Afghanistan o di un bombardamento prolungato come quello avvenuto in Libia, ma l'attacco serve a chiarire che l'uso di armi per la distruzione di massa non sarà tollerato. Un messaggio, insomma, beh, qui l'America naturalmente riprende questo suo ruolo di gendarme che poi l'opinione pubblica americana non vorrebbe interpretare, ma Macron spiega perché. Perché c'è un messaggio anche per l'Iran in questo attacco alla Siria, l'Iran che sta costruendo la bomba atomica. Obama ha detto, come altri presidenti americani, che se Teheran andrà avanti, Washington contemplerà l'uso della forza. E allora cosa penserà, dice Macron, l'Iran se dovessimo lasciare impunito il crimine di Assad? Cosa faranno altri dittatori nel mondo? Il messaggio dunque deve essere chiaro, e questo ha detto Macron, riguarda la sicurezza di lungo termine degli Stati Uniti. C'è poi l'aspetto etico: bambini sono stati uccisi dal loro despota nel modo più orribile, la comunità internazionale non può stare a guardare. Motivo strategico dunque di sicurezza ed etico. Non credo che Magdana abbia fatto il digiuno l'altra sera. The use of chemical weapons violates clear international norms. For decades, the international community sought to strengthen a norm against the use of this type of weapon, given both its potential for mass casualty and given the type of weapon of mass destruction that it is. Ben Rhodes è un altro personaggio chiave che ho incontrato più volte nel viaggio di Obama della settimana scorsa, il numero due del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, forse colui che ha dato la risposta più articolata al dubbio che assilla molti. Ci sarà questa ritorsione o no? La ritorsione, dico, da parte della Siria all'attacco americano. Beh, da noi in Italia si è parlato di un rischio attacco della Russia addirittura per proteggere la Siria, ho visto titoli roboanti. Beh, non è esattamente così. Rhodes lo ha spiegato chiaramente: Putin ha detto sì che aiuterà l'alleato con forniture militari, l'alleato siriano, cosa che fa da anni, ma certo non attaccherà l'America. Potrebbe però accelerare in effetti la consegna di missili antimissili in grado di intercettare i Tomahawk americani e dunque frenare l'azione americana. Cosa faranno l'Iran e Hezbollah? E Rhodes di nuovo mi spiega: nel loro interesse non far nulla. Se Obama manterrà la promessa di un attacco breve mirato, una escalation non gioverebbe all'Iran o a Hezbollah, perché potrebbe accelerare l'uscita di Assad, un prolungamento della guerra. Invece questa uscita dovrebbe essere negoziata appunto nel Ginevra 2, nel dialogo politico che tutti auspicano, anche perché l'anno prossimo scade il mandato di Assad e dunque è nell'interesse di tutti seguire questa linea politica. In questo modo la Russia eserciterebbe un controllo, ci sarebbe un avvicendamento dei poteri e i gruppi dei ribelli che gli americani stessi in qualche modo temono potrebbero essere avvicinati in modo molto graduale. Possibile dare certezze? Impossibile. Ovviamente un'operazione militare per definizione non ha esiti prevedibili al 100%, ma il mondo si chiederà: Obama domani notte può stare passivo con la coscienza a posto quando si violano trattati internazionali, quando la colpa è chiara, quando bambini sono uccisi in modo orribile, soffocati nel dolore? Vedremo se il presidente riuscirà con il suo discorso a smuovere il voto in congresso, che appare più favorevole al Senato che alla Camera. Ho sentito che nel caso di uno split vote, dunque Senato favorevole, Camera contraria, Obama forse andrebbe avanti lo stesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo varie indiscrezioni, la conferma ufficiale: Bruno Mars è stato scelto per la performance di metà tempo del prossimo Super Bowl, il 2 febbraio 2014. Bruno Mars, Grenade. I would go. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!